Ho sempre avuto il peso di un mattone, hey, sulle spalle di chi finge fa l'attore, hey. Mamma diceva Davide, ma come che fumavo in camera e non in balcone. Mi sono messo dietro a un bancone, 16 ore al giorno tra caffè e pallone, durato tre settimane come qualche relazione, hey. Perché ero già ubriaco all'ora di colazione, ha! Ho fatto anche un'esperienza porta a porta, 16 anni avevo la memoria corta, scordavo cosa dovevo dire per la svolta. C'era il fisso, dicevo se non li vendo chi se ne importa. Giocavo bene, poi ho pensato di fumare, poi ho smesso di giocare. Sogno 10 piante dentro un binocale, se pensi che la smetto hai capito male. Per camminare ho scelto questa via. Mi dicevano ti sbagli, è una pazzia. La loro non poteva essere la stessa mia. Ho capito che mi volevano mettere giù. Puoi fare tutto quello che vuoi, quello che vuoi. Se è rischioso sono solo cazzi tuoi. Mi dicevano ti sbagli, è una pazzia. Ho capito che mi volevano mettere giù. Poi tutto a un tratto è iniziato a suonare in giro. Qualcuno ci è rimasto senza respiro. Dicevano sei un altro col cappellino. Adesso prima che arrivo sgrullano il tappetino. Pensa alle soddisfazioni di passare nelle stazioni, sapendo di trovare sempre qualcuno come con le costellazioni. Sapere di averlo creato da solo con le canzoni, che quelli che mi deridevano erano solo cazzoni. Pensa che bello, adesso quando mi addormento non sento più che la mia vita sta morendo. Come quando ho fatto il call center, chi parla non sente, dice quello che qualcuno consente. Chi sa le sue disgrazie non le dice mai. Punto all'utopia del superuomo come Nietzsche. Fumo, scrivo e prendo i problemi alla radice. Tu che fai per essere felice? Per camminare ho scelto questa via. Mi dicevano ti sbagli, è una pazzia. La loro non poteva essere la stessa mia. Ho capito che mi volevano mettere giù. Puoi fare tutto quello che vuoi. Se è rischioso sono solo cazzi tuoi. Mi dicevano ti sbagli, è una pazzia. Ho capito che mi volevano mettere giù.